Voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Voto Antonio, come la rete cambia la politica, di Simone Spezia. Buongiorno cari ascoltatori e benvenuti a Voto Antonio, la trasmissione con la quale ogni settimana cerchiamo di raccontarvi come la rete cambia la politica, come voi potete cambiare la politica con la rete e anche come vi potete informare in questa campagna elettorale complessa e anche molto veloce tramite la rete su quello che succede intorno alla politica e anche intorno ai contenuti. I nostri riferimenti, come sempre, votantonio@radio24.it è l'email, votantonio r24 l'account Twitter, oppure se volete seguite me, Simone Spezia. Noi partiamo con un progetto adesso che ha una certa assonanza con la nostra trasmissione e si chiama Tweet Antonio. Luca Corsato, buongiorno. Ciao, buongiorno. In cosa consiste? Di cosa si tratta? Si tratta semplicemente che collegandosi su www.tweetantonio.it trova a disposizione tutti gli account Twitter degli attuali candidati al Parlamento e al Senato e attraverso il sistema è possibile selezionarli e inviare dei tweet chiedendo sul programma oppure facendo delle proposte e vedendo anche quali sono le risposte e il livello di interazione anche dei candidati ai quali si mandano i tweet. Un invito all'insulto di questi tempi. Ma devo dire che per quello che stiamo monitorando adesso, perché noi siamo online dal 28 di gennaio e devo dire che il livello invece è molto buono. Paradossalmente stiamo vedendo che proprio il fatto che sono esposti i tweet e gli stessi candidati, livelli di insulto assolutamente no, ci sono proposte che vanno dai trasporti a informazioni riguardo all'integrazione del genere a livello di partecipazione alle aziende o che altro, quindi devo dire che anzi c'è un livello di coscienza civica e civile molto alto. C'è da dire che nasce anche proprio all'interno dello stesso progetto, è nato nel giro di una settimana all'interno di una comunità che ci piace chiamarci Civic Hacker, che si chiama Spaghetti Open Data, quindi forse non so, l'aspetto tecnologico, tecnico, autoregola le persone ad avere un rapporto molto diciamo specifico anche con gli stessi interlocutori candidati alle varie camere, ecco. Ecco, già ci parlavi della nascita, ma appunto come nasce, che cos'è Spaghetti Open Data, molto brevemente, Luca? Molto brevemente è una comunità che esiste dal 2010 che si propone di sviluppare e allargare la coscienza su quello che è il termine degli open data, cioè i dati liberi e riusabili. Si parte all'interno della pubblica amministrazione e si estende a qualsiasi ramo delle attività produttive o che altro. Diciamo che poi l'ultima approvazione della legge 221 a fine anno dello scorso anno ha inserito proprio il principio dell'open data all'interno della pubblica amministrazione, per cui in teoria tutti i dati sono riusabili, liberi anche per fini commerciali. Questo è lo scopo con cui è nata Spaghetti Open Data. Dopo è chiaro che c'è un grande sviluppo per quanto riguarda tutto l'aspetto tecnologico, perché ovviamente si parla di dati che diventano digitali o che nascono digitali e quindi hanno una rapidità di diffusione molto alta. Tweet Antonio sfrutta il livello di velocità tecnologico che sta alla base delle infrastrutture di trasmissione dati e su questi abbiamo sviluppato questa applicazione che è open source, quindi va sul codice che è all'interno dei repository di Spaghetti Open Data e può riusarlo tranquillamente. Radio 24, come qualsiasi altra entità, può farsi la sua versione diciamo di Tweet Antonio. Di Tweet Antonio. Luca, ultima cosa che ti chiedo, l'indirizzo di riferimento, l'indirizzo internet di riferimento, dove dobbiamo andare? Allora, per il giochino è www.tweetantonio.it, dove tweet è con la I e non con la doppia E, e la comunità di riferimento è www.spaghettiopendata.org. Italiani! Voto Antonio, come la rete cambia la politica. Ed eccoci di nuovo, cari ascoltatori, adesso, come sempre, è il momento di fare il punto sulla settimana politica con Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Simone. Al centro di tutto anche questa settimana la vicenda del Monte dei Paschi. Beh sì, credo che ci accompagnerà in queste convulse giornate di qui al 24 febbraio. Certo, ne avremmo fatto volentieri meno, perché diciamo che non è questo il modo poi alla fine di risolvere il problema del rapporto fra politica e banche. Questo naturalmente determinerà, sta già determinando un grande polverone, perché è diventata moneta per la ricerca del consenso elettorale. E va bene, è inevitabile, considero tutto questo assolutamente inevitabile, però non pensiamo che da questo convulso dibattito emergerà un miglior assetto del sistema finanziario del nostro paese. Ci sarà un tentativo di strappare qualche percentuale al Partito Democratico e di rafforzare il fronte di centrodestra. Penso che in realtà chi ricaverà il maggior vantaggio da questa vicenda sarà la lista di Beppe Grillo. E forse anche quella di Monti, che dici? Ma su questo terreno non sono sicuro che Monti possa guadagnare molti consensi, sono altre le ragioni che possono indurre a sostenere Monti. Penso che sul terreno del Monte dei Paschi c'è il rischio reale che un po' tutte le forze tradizionali o le forze di governo rischiano davvero di avere qualche cosa da perdere. Stefano, si sta ragionando molto, come è perfettamente normale che sia, con questo sistema elettorale, con questa legge elettorale, sulle cosiddette regioni in bilico, il nostro Ohio direbbe qualcuno, nella fattispecie la Lombardia. E c'è un dato nei sondaggi dei giorni scorsi che mi ha particolarmente impressionato, perché sembrava che un po' di astensione stesse rientrando, e invece pare che in Lombardia gli astenuti o indecisi o indipendenti siano intorno addirittura al 42%, è una cifra enorme. Sì, sono convinto anch'io che non sia risolta la partita tra chi ha deciso e chi vuole astenersi. Cioè, non è detto, di solito ci spiegano i sondaggisti che l'area dell'astensione tende a ridursi man mano ci si avvicina al voto, no? E questa è ancora oggi l'opinione prevalente. Però il fatto che ci siano delle controindicazioni, che ci siano dei segni addirittura che l'incertezza addirittura aumenta in alcuni luoghi, dimostra quanto sia difficile orientarsi in questa campagna. Questa è davvero una campagna che ha pochi precedenti nel nostro paese per la posta in gioco e per la dislocazione delle forze, quindi che ci sia una forte incertezza. Io la faccio risalire al fatto che i partiti nel complesso, con eccezioni, ma insomma nel complesso il sistema politico è arrivato a questa campagna elettorale senza essersi realmente risanato, cioè senza aver riacquistato veramente la credibilità perduta. Adesso ce ne siamo un po' dimenticati, ma insomma siamo arrivati alla fine della legislatura senza che sia stata fatta nessuna delle riforme che erano state annunciate, senza nemmeno la riforma della legge elettorale, quindi che ci sia un deficit di credibilità dei partiti è un fatto e non può essere, diciamo, colmato da questa grande effervescenza della campagna elettorale. Quindi che la gente sia incerta e ancora una gran fetta di elettorato non sappia per chi andare a votare è più che comprensibile. Forse anche dovuto al fatto, Stefano, citavi le particolarità di questa campagna elettorale. Tra le particolarità di questa campagna elettorale c'è il fatto che è una delle più brevi, forse la più breve della storia della Repubblica, no? Alla fine tra un mese si vota. Sì, oddio, è breve per i nostri standard che sono abbastanza, diciamo, sorprendenti, perché ovunque in Europa si vota dopo un mese o poco più di campagna elettorale. Diciamo che almeno in questo ci siamo un po' uniformati, un po' perché siamo stati indotti dalle circostanze, ecco, ma tendiamo a uniformarci a quella che è la regola nei grandi paesi di democrazia occidentale. Eravamo noi un'anomalia con campagne elettorali che duravano 2 o 3 mesi. Stefano, inizierei a dare un'occhiata alle singole forze adesso e partirei dal Presidente del Consiglio, Mario Monti, candidato per Scelta Civica. Lo abbiamo avuto in studio martedì, c'eri anche tu. Che impressione ti ha fatto il professore su come affronta questa campagna elettorale? Ma lui punta molto su questa sua immagine di serietà, di raccordo con l'Europa, dopo essere stato a parlare con noi, poco dopo è partito per questo suo viaggio in Europa, è andato a parlare con la Merkel, si è attirato per questo agli strali di Alfano e del centrodestra, ma non è che sia andato secondo me a fare campagna elettorale con la Merkel, non avrebbe molto senso, però è vero che lui sottolinea molto questo suo rapporto privilegiato con i centri europei, con la comunità europea, con il paese che è diciamo il più forte oggi in Europa, cioè la Germania, e tutto questo non so se sia in grado di portargli molti voti, però rappresenta un asse diciamo della sua campagna che lui non contraddice, il rapporto con, lui rappresenta il rapporto con l'Europa, con questa Europa. Un'Europa che naturalmente deve essere indotta a uscire dalla sola austerità e imboccare con più decisione la via delle misure che favoriscono la crescita economica. Lui, come se ci dicesse tra le righe, guardate che io sono in grado di trattare con l'Europa questi obiettivi di sviluppo, piuttosto che qualcun altro che non ha la stessa esperienza, la stessa consuetudine che ho io con i centri decisionali europei. Mi sembra che questa sia la cifra della sua campagna elettorale. Veniamo al PD, poi magari appunto faremo un accenno anche al PDL e alle forti critiche, no, per questo rapporto con la Merkel che tu già accennavi. Dal lato del PD, insomma, continuiamo a leggere, parlavamo delle regioni in bilico, no? Continuiamo a leggere questo famoso incubo del 2006 che aleggia sul Partito Democratico, insomma, il rischio di trovarsi con uno o due senatori di vantaggio e magari sono quelli di Sinistra Ecologia e Libertà, se non addirittura d'Ingroia, anche se sembra difficile che entri al Senato la forza di Rivoluzione Civile, Stefano. Sì, ma il Senato effettivamente è ancora oggi poco prevedibile per il sistema elettorale e anche per diciamo, il confronto che si sta svolgendo in alcune regioni chiave, però anche qui le indicazioni sono un po' contraddittorie, non so, per esempio in Lombardia che era assegnata fino a qualche tempo fa con sicurezza al centrodestra, oggi il centro-sinistra invece è quantomeno testa a testa, si dirà è testa a testa nella competizione per la regione tra Ambrosoli e Maroni, però in definitiva se si dovesse verificare il caso, in periodo ipotetico naturalmente, che Ambrosoli, cioè il centro-sinistra, vincono in regione, è possibile, è plausibile che questo riapra contestualmente anche la partita del Senato. Anche in Sicilia non è tutto chiaro, anche lì il centrosinistra mi pare che abbia recuperato. Diciamo che la questione del Senato oggi come oggi è davvero, in linguaggio del totocalcio si direbbe 1x2, cioè è imprevedibile. Ci può essere una piccola maggioranza di centrosinistra, ci può essere che a Bersani mancano pochi voti per fare maggioranza e può essere invece che ne abbia bisogno di molti di più, cioè che ci sia la possibilità che ne abbia, richieda 10 o 15 o 20 seggi per poter fare maggioranza al Senato. Tutto questo non determina di per sé l'ingovernabilità, però determina la necessità di cercare un accordo di coalizione e di alleanza post-elettorale molto solido, molto saldo e che non sia diciamo soltanto un'alleanza formale, ma sia fondata anche su una idea comune di quello che bisogna fare per il Paese e un programma che sia coerente. Segnaliamo a sinistra del Partito Democratico la surreale polemica della settimana, almeno a mio giudizio naturalmente, che è quella su Falcone, no? Un Ingroia che si paragona a Falcone, la Bocassini che picchia duro e lui che dice no, ma in realtà non mi sono mai paragonato a Falcone, insomma si fa anche su questo la campagna elettorale paradossalmente. Ma io trovo che si dà un'immagine pessima della magistratura, l'idea di dare l'impressione che la magistratura sia divisa in correnti, in faide, purtroppo è un po' così, però che questo venga portato alla luce in questo modo così esplicito e anche diciamo così deprimente, legandolo a una campagna elettorale in corso, insomma è qualcosa che fa riflettere francamente. Proprio sulla necessità invece che la magistratura sia per quanto è possibile potere diciamo terzo, potere che non si mescola con i vizi della politica e con la politica stessa, ma purtroppo, ripeto, sappiamo bene com'è la situazione. Infine il PDL, pare che la famosa proposta shock di Silvio Berlusconi debba arrivare domani e prevede IRPEF massima al 35%. Ma questa è una proposta che viene presentata come un'assoluta novità, ma in realtà ritorna con una certa periodicità nelle proposte di Berlusconi. Io mi ricordo nel 2001 la tassa flat cosiddetta doveva essere il 33% per tutti, era il punto primo del programma di Berlusconi. Poi nel 2006, nel 2008 si è sempre tornati a discutere di un sistema fiscale che fosse fondato su aliquote basse e piuttosto diciamo fisse. Naturalmente poi non è stato fatto niente di tutto questo, no? Se si va a prendere la promessa del 2001 e quello che poi ha fatto realmente il governo Berlusconi, mi sembra che non sia stato mai messo mano al sistema fiscale in questi termini. Quindi vediamo che cosa proporrà Berlusconi, ma qui il problema di queste promesse è che bisogna anche essere credibili e la credibilità si vede da quello che è stato fatto. Che cosa è stato fatto da parte di un Presidente del Consiglio e di una coalizione che ha governato per svariati anni nell'ultimo decennio? Rispetto a questo tipo di promesse non è stato fatto quasi niente. Berlusconi dice non me l'hanno lasciato fare perché i poteri del Premier non sono adeguati. Sì, però questa è la realtà delle cose. Se lui oggi pensa di ricominciare con questo tipo di promessa, dovrebbe prima parlare allora di una riforma costituzionale, ma la riforma costituzionale richiede anni per essere attuata, mentre invece le esigenze fiscali del Paese sono immediate. Grazie, grazie anche per questa settimana, Stefano Folli, buona giornata. Grazie Stefano. Ciao. Italiani! Vota Antonio, come la rete cambia la politica. Monitorare i nostri politici, vedere come vanno le cose in rete, ma anche cercare di capire che cosa pensano gli utenti, qual è la reazione. Parliamo di due progetti adesso, ma poi allargheremo il discorso e affronteremo il problema di come i nostri politici gestiscono la rete. Insomma, siamo di fronte ad alcuni paradossi. Se pensate che ieri, per esempio, l'altro ieri mi è arrivato un comunicato di Gabriele Albertini, candidato alle regionali in Lombardia, che riportava un tweet dello stesso Albertini, quindi una sorta di cortocircuito mediatico di comunicazione politica pazzesco. Saluto Vincenzo Cosenza di Blog Meter, buongiorno Vincenzo. Buongiorno. E saluto Riccardo Luna, buongiorno Riccardo. Buongiorno Simone. Partiamo da Vincenzo Cosenza, Blog Meter, elaborano un sacco di dati, una società specializzata in questo settore che adesso è partita con un nuovo progetto che si chiama Polis Meter. In cosa consiste? Polismeter.it è un sito che mostra fondamentalmente sei pannelli utili a capire un po' come i politici si comportano in rete, quindi mostrano un po' le menzioni, i politici più menzionati in rete, su tutta la rete italiana, mostrano i tweet, gli status update di Facebook che hanno ottenuto più like, più retweet, quindi che sono stati più virali il giorno prima, mostra quindi le performance dei politici in rete e come le persone parlano di questi politici, quindi gli argomenti di conversazione della rete sulla campagna elettorale. Riccardo Luna invece ha appena dato vita insieme a Tecnè, se non erro, ad un progetto che si chiama Italia 2013, lo trovate italia2013.me, attenzione, non .it, questo in maniera che lo ritroviate facilmente, che forse va un po' più a fondo su quelle che sono le interazioni degli utenti con questi politici e su come discutono questi utenti. Riccardo. Ma il presupposto è che questa forse è la prima campagna elettorale davvero social, dove insieme, prima di essere 30 milioni di lettori, siamo in questo momento 30 milioni di reporter, di raccontatori, di commentatori. Cioè questa è la prima volta in cui le opinioni degli elettori diventano contenuto che tutti possono vedere, condividere, leggere, commentare a loro volta, cioè diventano rilevanti. Allora abbiamo immaginato di costruire una piattaforma che fa una serie di cose. La cosa fondamentale è trasformare appunto in contenuto la conversazione che c'è in rete attraverso una piattaforma che è stata sviluppata da una società romana che si chiama CJ. È una redazione di giornalisti, noi selezioniamo i migliori contenuti relativi a tutti i candidati, a tutti i temi, presi da Twitter, presi da Facebook, presi da Instagram, presi da Tumblr, presi da tutti i possibili posti dove vengono scritti, e li trasformiamo in un contenuto giornalistico. Ovviamente non basta un algoritmo per fare questo, cioè non basta una piattaforma, è necessario che ci sia sopra del giornalismo per dare senso a quelle conversazioni, interpretarle. Per esempio, ovviamente dopo la trasmissione di ieri sera è stato evidente che c'era un problema politico relativo alla presenza in televisione di Fassina, ci è voluto un giornalista per interpretare quei tweet, per raccontarli, per metterli in fila e per mettere in evidenza quello che è il risultato finale. Quindi questo è un aspetto fondamentale della piattaforma, è una specie di un giornale, perché facciamo 3 edizioni al giorno in cui cerchiamo di dare un senso appunto alle conversazioni che ci sono in rete. Poi attraverso IDA Monitoring facciamo un lavoro abbastanza simile a quello che fa BlogMeter, cioè diamo degli indicatori sui candidati premier e gli altri candidati, quindi il valore della conversazione, i tweet, le tweet, le mention, tutto quello che davvero fanno i candidati, e un paio di 6 volte settimana attraverso un'altra piattaforma che è quella di Expert System, si chiama Cogito, cerchiamo di analizzare il sentiment, si dice in sostanza, cioè il sentimento, i sentimenti che generano ogni candidato, quindi quali sono le parole associate a ogni candidato, quali sono il tipo di interazioni che hanno uno con l'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Per esempio, sempre per far riferimento a Fassina, poco fa abbiamo pubblicato i dati con quali sono le parole che le persone associano al responsabile economico del PD dopo le sue presenze televisive, ed è interessante vederlo. Ovviamente stiamo parlando di una cosa, lo dico sempre, i tweet non sono voti, gli status di Facebook non sono voti, sono però degli indicatori importanti, sono degli indicatori importanti di un'opinione pubblica attiva che vuole partecipare. Ovviamente uno non deve farsi dettare la linea dalla rete o da Twitter, però non ascoltare, non decifrare quei messaggi sarebbe un errore clamoroso. A testimonianza del fatto che i tweet e gli status su Facebook o le foto appunto postate su Instagram non sono dei voti, Vincenzo Cosenza, la vostra classifica che cosa dice in sostanza al momento? Quello che si nota è che molto spesso la rete, quindi le conversazioni in rete, vanno un po' a traino di quella che è la grande informazione dei mass media, quindi si notano dei grossi picchi di conversazioni a seguito di trasmissioni televisive che per esempio portano in alto Silvio Berlusconi nel momento in cui va a servizio pubblico o compra Balotelli, oppure il Partito Democratico nel momento in cui scoppia il caso PD, quindi c'è una influenza forte dei mass media sulle conversazioni della rete, però c'è anche un feedback diverso che dalla rete al contrario va verso i mass media, perché sempre più spesso i politici utilizzano la rete per disintermediare le agenzie stampa, quindi per fare in modo appunto che il loro tweet, il loro status su Facebook diventi di fatto la notizia. Adesso io vorrei andare un po' più a fondo su questa questione. Riccardo Luna ci ha parlato di una campagna social, ma come abbiamo appena sentito da Vincenzo Cosenza, insomma, alla fine il grande driver è sempre quello, insomma, chi porta avanti le cose è sempre la vecchia, se così vogliamo chiamarla, televisione. Non è che a definirla campagna social, Riccardo, insomma, te lo chiede uno che fa una trasmissione settimanale che si occupa di rete e di politica, quindi non dubito dell'importanza di internet e dei social media. A definirla campagna social alla fine sbagliamo, perché alla fine chi guida è sempre la TV o i vecchi media. No, io credo intanto questa è una campagna particolare, nel senso che è una campagna elettorale che si fa d'inverno. E quindi diciamo è più difficile fare comizi di piazza, credo che li stia facendo praticamente soltanto Grillo, i grandi comizi di piazza di una volta. Se voi, anzi, a proposito, soltanto attraverso la rete si riescono a vedere le piazze piene che sta collezionando Grillo tutti i giorni, e vi assicuro che le foto che trovate su Instagram e su Twitter delle piazze piene di Grillo sono impressionanti. Bersani sta riempendo dei teatri, altri non ho visto delle particolari adunate, quindi è chiaro che una campagna fatta d'inverno al freddo con meno tempo, e tra l'altro l'avete visto anche con pochissimi manifesti elettorali in giro, ne ho visti tra Roma, Milano e Torino, almeno ne ho visti pochissimi. È chiaro che in questo ruolo la televisione è diventato il comizio, e quindi si commenta la televisione e quindi si commenta il comizio. è diventato il nuovo comizio elettorale, è quello che si fa in televisione, quindi non si fa più per piazza, ma si fa per una piazza più grande, che è una piazza virtuale nella quale tutti possiamo partecipare. Quindi da questo punto di vista la televisione è centrale, ma internet è indispensabile. E tra l'altro internet consente di far emergere delle dinamiche alternative a quelle della televisione. Un caso essenziale ovviamente è quello di Grillo, soltanto attraverso internet ti rendi conto dei comizi di Grillo. Però un altro caso interessante è quello di Oscar Giannino. I dati di BlogMeter, ma ovviamente anche noi, poi i dati sono dati, quindi non è che ci sono dati diversi, i dati sono sempre gli stessi. Oscar Giannino in questo momento ha un gradimento, una presenza su rete che è assolutamente straordinaria rispetto allo spazio che gli danno i giornali e per le percentuali che gli attribuiscono i sondaggi per il voto del 24 febbraio. Cioè in questo momento credo che Giannino, in certi giorni Giannino è il candidato che ottiene più retweet e mention, quindi che ottiene più conversazione su Twitter rispetto a tutti gli altri, quindi davanti a Monti e Bersani, è comunque sempre tra i primi tre. E questo perché? Per un motivo fondamentale, credo di poter dire, perché Giannino ci sta davvero. Cioè, mentre per esempio uno non immagina di usare l'account Berlusconi 2013 per parlare direttamente con Berlusconi, e quando l'account di Bersani e l'account di Monti sono gestiti dagli staff, anche se non indicano i loro messaggi, non sono siglati dalla sigla ST che dice che sono curati dallo staff, ma evidentemente se stanno su un palco a parlare non possono nello stesso momento twittare, se stanno in televisione non possono allo stesso momento twittare, quindi sono dei tweet che sono dei comunicati stampa fatti in 140 caratteri. Oscar Giannino riesce davvero a stare in rete, riesce a rispondere, riesce a lanciare dei temi che tra l'altro sono dei temi di largo interesse, quindi sta usando la rete in maniera, diciamo così, sana e virtuosa. Se poi questo si tradurrà anche in dei voti, lo vedremo il 24. Non credo che Giannino diventerà premier soltanto per la capacità di usare i social network. Beh, certo. In maniera autentica, però sicuramente è molto interessante notare il grande gradimento che in questo momento ha non solo Giannino, ma anche i temi che lui lancia. Tra gli hashtag più forti del mese, oltre a quelli importanti come quello relativo a Monti alla scuola, che ha ovviamente sbaragliato e riscrive la storia con Silvio, come Silvio, ci sono quelli di fare e in tutte le salse, quindi fare e fermare il declino sono sempre stati hashtag importanti per tutto il mese di gennaio, segno che quegli argomenti interessano e che la rete Giannino lo sta usando bene. Concordi, Vincenzo Cosenza, o c'è anche il fatto che Oscar sa parlare fuori dai denti? Insomma, c'è anche questo elemento, forse, insomma, proprio una questione di contenuti, poi al di là, no, di una questione di capacità di utilizzo della rete. C'è una questione di contenuti, ma c'è anche una capacità proprio di utilizzo del mezzo, nel senso non soltanto di saper scrivere cose di contenuto in 140 caratteri, non apparendo un robot come fanno la maggior parte degli staff che gestiscono gli account per conto dei politici, ma c'è anche la capacità di andare a rintuzzare, se vogliamo, anche altri politici, a sfottere quasi, no? Quindi a dialogare in qualche modo con gli altri politici della rete. Loro non rispondono, ma il pubblico di Giannino apprezza molto questo tipo di schermaglia e quindi ciò ne favorisce la viralità. Però è vero sicuramente, come diceva Riccardo, che poi se si analizza per esempio come facciamo noi, non soltanto Facebook e Twitter, ma anche le menzioni sui siti e sui siti di news, per esempio, si nota che c'è un divario enorme nella copertura, diciamo, no? Quindi Giannino molto forte su Twitter, ma per esempio è chiaro come Bersani e Monti siano molto più forti sui siti di news, che gli danno appunto più spazio. Quindi sicuramente la rete è molto utile per quei candidati che non hanno uno spazio loro e che devono far sentire la propria voce, ma devono anche in qualche modo fomentare i propri fan e dar loro delle armi per poter essere portatori virali, diciamo, del messaggio. Un'ultima domanda per Riccardo Luna, poi andiamo a chiudere. Io ho l'impressione complessiva che in questa campagna elettorale, che giustamente definivi una campagna, la prima campagna social, perché la prima nella quale vengono utilizzati questi mezzi con una certa intensità, al più, e qualcosa già accennavamo prima, da parte dei politici l'utilizzo sia un utilizzo di facciata, non un utilizzo profondo, ed è qualcosa che già accennavamo prima facendo riferimento alle differenze tra Oscar Giannino e gli account degli altri candidati premier, cioè un uso superficiale di facciata, l'uso appunto per diffondere comunicati e poco altro, un uso scarsissimo di dialogo e un uso scarso di quei mezzi che Obama ha usato nell'ultima campagna elettorale, cioè l'uso della rete più profondo, la raccolta di dati e la gestione degli elettori da questo lato. Riccardo. Beh, noi in realtà in questo momento siamo almeno 4 anni indietro rispetto a Obama. La prima campagna di Obama fu una campagna social in questo senso, anche se puntò moltissimo sulla rete per il fundraising, e la seconda campagna di Obama è stata una campagna che ha puntato molto invece sulla raccolta di dati e quindi l'analisi degli elettori e poi andare a contattare uno per uno. In realtà noi siamo appunto 4 anni e mezzo indietro e siamo ancora alla prima versione, quella più social. Devo dire che è vero che c'è un utilizzo abbastanza di facciata, però lo trovo comunque rilevante. È la prima volta che la classe politica dà importanza a internet. Qualche giorno fa uno dei responsabili della comunicazione del PDL, Giorgio Lainati, che ha seguito tutte le precedenti campagne in un ruolo importante, raccontava che questa volta è stato deciso a tavolino come strategia, per esempio, di non utilizzare più i manifesti con Berlusconi, vi ricordate, tipo modello meno tasse per tutti, che ebbero anche un grande successo nell'elettorato di centrodestra, e di rinunciare completamente alle affissioni. Cioè, tutto il budget della campagna elettorale è concentrato su televisione e internet. E la stessa campagna del PD, che è vero è una campagna dove Bersani non è un interlocutore, diciamo così, autentico su Twitter, perché è lo staff che manda i messaggi, però la stessa campagna del PD è pensata per creare degli oggetti sociali che vivono sulla rete. Il sito del PD apre tutti i giorni praticamente con un fotomontaggio divertente, ironico, che vuole almeno essere divertente e ironico sulla campagna elettorale, che sfotte i rivali e che è un classico oggetto che la gente si può portare sul proprio sito, condividere su Facebook, mandare agli amici, eccetera, eccetera, eccetera. E anche i video che hanno presentato l'altro giorno sono dei corti di un minuto che sono perfetti per YouTube per essere condivisi tra gli amici. Cioè, tutta la campagna mi sembra puntata non più, per esempio, appunto alle affissioni o alle cose tradizionali, ma a creare degli oggetti che vivono sulla rete e che alimentano la conversazione sulla rete. Quindi lo trovo comunque un segnale di attenzione da parte di una classe politica che negli anni passati ha completamente ignorato internet. Sapete che siamo uno dei paesi che è più in ritardo d'Europa sulla diffusione della rete e più in ritardo sull'utilizzo della rete nell'economia. Cioè, siamo un paese che in questo momento ha avuto una classe politica che ha delle responsabilità gravissime sul ritardo di internet, però questa volta hanno capito che è importante, cioè hanno capito che gli elettori stavano lì e che quindi su quel terreno si dovevano confrontare. Quindi, con tutte le ingenuità che ci sono state e anche a volte appunto le non verità che sono state raccontate sulla rete, però ci stanno, hanno finalmente capito che è una cosa importante, e questo mi fa pensare che il prossimo governo, qualunque esso sia, guarderà internet non più con quella sufficienza con cui i politici lo guardavano finora. Mi ricordo una battuta clamorosa di Lema o di Bersani, dello stesso Berlusconi, che appunto non sapeva dire Google, lo chiamava Google, insomma Gogol appunto. Io credo che finalmente hanno capito che internet è una cosa seria, che gli elettori stanno anche lì, che la conversazione si fa lì e che quindi da qui in poi finalmente internet avrà diritto di cittadinanza in questo paese. Grazie a Riccardo Luna. Vi ricordo il progetto, lo trovate su italia2013.me, e grazie a Vincenzo Cosenza di Blog Meter. Invece il progetto del quale abbiamo parlato è polismeter.it. Grazie a tutti e due. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci in quest'ultima parte. Vogliamo prendere un'iniziativa interessante, perché è un'iniziativa che incrocia i social network e la politica, naturalmente, perché questi sono i temi della trasmissione, ma anche la cultura, i libri, i grandi autori e non solo i grandi autori. Saluto Saro Trovato, direttore di Libreriamo. Buongiorno Saro. Buongiorno a voi. Allora, che cosa vi siete inventati? Che iniziativa vi siete inventati su Facebook, tra l'altro? Ci siamo inventati più che altro un'iniziativa che diciamo portasse gli stessi fan di Facebook e le stesse diciamo persone che si muovono tutti i giorni su il social media più importante al giorno a dare un proprio contributo positivo in occasione delle prossime elezioni, ovvero i fan possono partecipare in maniera positiva utilizzando i libri e tutta la tradizione dei libri per dare un contributo ai nuovi partecipanti alla politica per le prossime elezioni affinché possano governare meglio. In sostanza, che cosa fate? Cioè, si va sulla vostra pagina Facebook e che cosa si può fare? Basta scegliere un libro preferito dove ci siano delle frasi o degli aforismi in cui si parla di buon governo, di buona cultura, di senso civico, di giustizia, di rispetto del prossimo, e indicarla, diciamo, postandola sulla nostra pagina affinché poi possa essere condivisa e possa essere praticamente indirizzata ai politici in toto. Ovvero i fan si trasformano in una sorta di book premier in cui danno il loro contributo affinché si possa migliorare l'apporto alla politica ma anche l'apporto alla cultura. In sostanza, poi che cosa farete? Gliele girerete voi ai politici queste cose? Noi li stiamo raccogliendo tutti e via via praticamente sceglieremo due strade. Uno, li condivideremo praticamente con le pagine dei politici. Due, li faremo conoscere agli politici stessi inviandoli. Tre, praticamente coinvolgeremo i media affinché possano praticamente mettere in evidenza l'apporto che il popolo dei social network fa a favore della politica. C'è già qualche frase che ci volete segnalare? Guarda, magari una scelta da te, No, guarda, praticamente più che una frase, io mi sentirei di dire che tutti i programmi che in questo momento si stanno affrontando da un punto di vista della politica, la cultura è sempre messa in secondo piano e il rispetto della cultura, molte volte bistrattata nel nostro paese, soprattutto della lettura, non fanno altro che migliorare il senso civico di una nazione che, se leggesse di più, forse avrebbe anche più responsabilità nell'affrontare la cosa pubblica. E siccome gli stessi politici sono anche loro dei cittadini, se leggessero maggiormente le verità che i libri raccontano, che derivano da una esperienza lunghissima, forse si potrebbe migliorare quel rispetto del nostro Stato che oggi merita di avere il massimo del prestigio, non solo nazionale ma anche a livello internazionale. Grazie a Saro Trovato, direttore di Libreriamo. Cercate la pagina Facebook di Libreriamo e troverete tutto questo. Se volete aderire all'iniziativa, appunto, mettere qualcosa di vostro all'interno di questa pagina. Noi andiamo a chiudere così questa puntata di Vota Antonio. Vi ricordo i nostri contatti ancora una volta: votaantonio@radio24.it è l'email, votaantonio r24 è l'account Twitter, oppure Simone Spezia, che è il mio. Un ringraziamento a Fabio Cantadori e Filippo Aureggi in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Per chi vuole, ci sentiamo lunedì dopo il GR delle 9 con 9 in punto, come sempre. O altrimenti, per gli affezionati della trasmissione, naturalmente l'appuntamento è per sabato prossimo dopo il GR delle 9. Buona giornata.